per esperienza ormai eterna, che questi provvedimenti non concludono nulla, però invece di esserne, come dire, di assegnare speranze a queste chiacchiere che fanno i politici, non sappiamo sempre se in buona o in cattiva fede, ma lo lasciamo questo a ciascuno decidere, ciascuno e ciascuna. A noi ci interessano i fatti, allora piuttosto che rimanere poi delusi al momento che avverrà l'approvazione di questo decreto del governo cosiddetto svuota carceri, che non svuoterà un bel niente, vediamo di vederlo in anticipo, se no, non perché è chiaro che è brutto buttare acqua sul fuoco delle speranze che in carcere permettono anche di sopravvivere. Sappiamo che in carcere si sopravvive anche con la speranza, a volte anche con la speranza illusoria, per esempio, che so, sappiamo che tutti i detenuti e le detenute coltivano in cuor loro una grande evasione, se la sognano la notte, a volte ci lavorano pure, mettono in atto dei progetti, la gran parte dei quali inapplicabili. Questo però, questa speranza permette di sopravvivere, di essere vivi, perché il carcere tende a uccidere, non solo fisicamente, come i morti, siamo arrivati alla soglia dei 200 in questo 2011, tra suicidi e morti cosiddetti per cause da accertare, ma soprattutto il carcere uccide dentro, nella psiche, nella mente, e uccide la volontà di vivere proprio. Toglie la volontà di vivere, e la speranza è quella che la mantiene accesa, la vita. Però assegnare speranze appunto a un sogno di evasione o di liberazione, quello che si basi sulle proprie forze e quelle dei compagni di detenzione, è un fatto. Va bene, perché se non altro, anche se non riesce, consolida appunto un rapporto, un legame, una relazione tra compagni di carcere. Invece però assegnare speranza alle chiacchiere dei politici è brutta cosa. E allora vediamo di smontare subito questa chiacchiera, perché tutti i giornali parlano di provvedimento svuota carcere, svuota qua, svuota là. Questo non svuoterà un bel niente, e a parte che non è ancora stato approvato, ma anche se fosse approvato così come è scritto, no, non svuota un bel niente. Anzi, secondo noi porta anche delle brutte cose, delle negatività che non sappiamo se sono state fatte per incapacità, imperizia, non conoscenza del problema. È chiaro che il problema della detenzione è un problema complesso, il carcere è un ambiente abbastanza sconosciuto purtroppo da parte di quelli che operano sul carcere. Il carcere in realtà lo conoscono solo quelli che stanno dall'altra parte del muro. Parliamo di detenuti e detenute, e perché quelli che stanno al di qua, che anche l'abbiamo visto, ormai sono a tantissimi decenni che ci occupiamo di carcere, anche diciamo personalmente, nel senso che l'abbiamo verificato di persona, non è facile capire, probabilmente è un meccanismo talmente astruso e pazzesco che non permettere di essere compreso. E allora appunto non, cioè, bisognerebbe chiaramente in realtà le uniche proposte reali semplicemente di modifica, cioè di riforma del carcere, non di abolizione. Noi siamo per l'abolizione, lo continuiamo a dire, perché poi il carcere, l'abbiamo visto, riformato poi torna a essere quella mostro che era prima. Però le uniche proposte di riforma serie fatte, in realtà non a caso sono uscite nell'Italia del dopoguerra, quindi dal 49, quando iniziano le prime rivolte carcerarie, ad oggi, sono state prodotte da carcerati. Non è una chiacchiera, è vero, perché, e questo non lo dico soltanto io, e diceva voi siete estremisti, quella, no, questo è scritto nei grandi testi di criminologia, si chiamano così, quel settore che studia il problema di coloro che commettono dei reati e poi vanno in carcere. Ecco, nei trattati di criminologia, quelli più attenti, più intelligenti, molti di quelli, per esempio, gran parte scritti negli Stati Uniti d'America e nemmeno tradotti in italiano, ma anche alcuni anche tradotti in italiano, alcuni grandi studiosi di criminologia affermano che le migliori proposte, più attente, più intelligenti, più concrete per alcune modifiche del carcere, sono venute dalle rivendicazioni fatte dai detenuti. E perché non serve la laurea o le conoscenze fatte non sappiamo bene dove, per conoscere il carcere bisogna starci, quindi è chiaro che lo conosce molto di più una collettività di persone che lo frequenta, controvoglia, ma lo frequenta, che è costretta a frequentarlo piuttosto che appunto questi cosiddetti funzionari del ministero che ci dedicano. Insomma, vediamo allora di questo cosiddetto provvedimento svuota carceri. Però prima ci prendiamo un attimo di tregua perché appunto è doloroso l'affrontamento. È una secchiata d'acqua sulle speranze, ci dispiace darla, ma è meglio la realtà che le bugie. Però prima volevamo farvi ascoltare una canzone, le cui parole, queste sono alcune canzoni, ci è arrivato un CD qua di jail scritto, di jail vuol dire carcere, è una parola inglese. In realtà il jail è, a differenza di prison, che è l'altro termine nella lingua anglosassone, il jail è la forma di carcerazione immediata, è l'arresto, quello che diciamo il carcere giudiziario sarebbe qui, mentre la prigione è quella dove sconti dopo le lunghe pene, dopo che sei stato condannato. E quindi il jail rappresenta un po' tutte le carceri, soprattutto al primo momento che ti viene arrestato e buttato in queste jail che ci stanno in ogni dipartimento, insomma. Allora, questo è un disco fatto appunto da un gruppo musicale che però le cui parole è un rap, come si dice, più o meno il genere musicale è quello. Le parole sono state scritte da detenuti e detenute. I testi proprio scritti dai detenuti. Il disco è stato realizzato dall'associazione Il Ponte Magico, che è proprio un'associazione appunto che si occupa di così, mettere in collegamento fuori e dentro le galere. Vabbè, vi facciamo ascoltare perché siccome io è un genere di musica che non conosco e non so valutare se sia buono o cattivo le parole, vabbè, però le vediamo insieme. Ve faccio ascoltare intanto la traccia numero 4, che è Il sole ci scalderà, poi man mano le altre tracce e poi avrei piacere di sentire da voi che ci ascoltate in carcere soprattutto, ma anche fuori, se è valido oppure no, questi testi sono interessanti, queste canzoni interessanti. Tra l'altro questo è un CD, quindi si può, però le canzoni sono anche scaricabili gratuitamente, e ascoltabili anche, stanno sia su YouTube, poi vi diamo l'indirizzo, e sia si possono scaricare per tenersi sul computer e ascoltarle quando uno vuole. Vabbè, adesso intanto vi facciamo ascoltare la quarta traccia, Il sole ci scalderà, poi andremo alla secchiata di acqua fredda, che invece è diciamo, come il ragionamento intorno alle misure che ci stanno preparando lor signori. due lacrime sul foglio dilatando i miei pensieri. Il sole è caldo e scalda il cuore di chi canta solo per amore. Cadono due lacrime ma non andranno perse. Scarpe nuove per correre lontano. Di notte sono solo, il giorno passa, il tempo passa. Di notte sono solo, il giorno passa, il tempo passa. Sotto il sole, tutto il giorno a pensare come fare, a girare e rigirare senza niente che va bene. Sotto il sole tutto il giorno. Potrei sognare senza un sogno, non lasciare mai un segno. Sogni e canta, non ti preoccupare, sogni e canta. E allora, questa era la traccia numero 4 di questo CD di Jail, si chiama D-Jail. Allora, intanto appunto, poi faremo sentire anche le altre tracce. Sì, a me pare caruccio, no? non me ne intendo di questo genere di musica. Io questo genere, appunto, il rap, non so valutarlo se sia buono. Le parole mi sembrano dignitose, buone. Comunque questo lo potete appunto... sia comprare, però non so se dove è in distribuzione, però si possono scaricare anche su YouTube, ci stanno. Allora voi fate www.youtube.com, che è l'indirizzo YouTube, e nella ricerca mettete il Ponte Magico, tutto attaccato, il Ponte Magico, e ci stanno queste canzoni cantate. Allora, e questa è la diciamo per prendersi un po', riprendersi un po' dalla batosta, che non è tanto la batosta, perché poi in realtà la situazione rimarrà abbastanza come era, però appunto aver suscitato tante speranze, poi vabbè, insomma, il problema qual è? In due sono sostanzialmente, poi ci sono tante altre cose, due le misure centrali di questo provvedimento che dovrebbe alleggerire la presenza in carcere. Una è il fatto che viene prolungato il decreto che aveva fatto il precedente governo, il decreto cosiddetto Alfano, quando Alfano era ministro della giustizia, sotto il governo Berlusconi, di portare e mandare agli arresti domiciliari chi aveva da scontare 12 mesi, cioè l'ultimo anno, l'ha portato a 18 mesi. Col precedente decreto erano usciti nell'arco di due anni 4.000 persone, con questo ne usciranno 3.300, queste le previsioni fatte dallo stesso ministero, quindi una goccia d'acqua. Qualcuno ha detto si vuole svuotare il mare col cucchiaino, col secchiello, quello che usano i bambini per giocare sulla spiaggia. È così, perché 3.000 persone... attenzione, che il problema, a differenza dell'indulto, dell'amnistia, che operano immediatamente, qualcuno ricorderà l'indulto del 2006, uscirono, tra l'altro capitò in agosto, uscirono di botto, proprio tra l'altro nei primi giorni di agosto, quando era tutto chiuso, era pure difficile che queste persone uscite trovassero la strada di casa, eccetera. E insomma, comunque si esce, quando viene approvato l'indulto, esci immediatamente, il giorno dopo vieni fatto uscire. Invece con questo decreto, con questo provvedimento, così come il precedente, ne usciranno 100, cioè 200 al mese, per cui non ci sarà un allentamento, perché le misure, diciamo, altrettanti ne entrano, di più ancora. Il problema è che... una serie di meccanismi che quelli andavano aggrediti, per esempio la legge Cirielli, quella che mette il divieto di fruire delle misure alternative a una serie di reati, soprattutto alla recidiva, quella andrebbe abrogata, perché la Cirielli è che impedisce, Cioè, il problema è che sia il provvedimento Alfano di due anni, di tre anni fa, quello che portava con un residuo pena di 12 mesi, cioè di un anno, si poteva andare alla detenzione domiciliare. Adesso l'ha portata a 18 mesi, lo vuol portare, cioè è nel decreto che dovrà essere approvato. Il problema è che queste misure vanno a riempire il vuoto di una legge che già c'è, ma che è inapplicata, sembra assurdo, no? Perché addirittura c'è una legge italiana in Italia da 30 e qualcosa, dall'86, la legge Gozzini, che dice addirittura che quando hai un residuo pena di 3 anni puoi andare all'affidamento in prova ai servizi sociali, cioè molto meglio della detenzione domiciliare l'affidamento in prova, perché sei praticamente libero, hai soltanto esci fuori dal carcere, hai dei limiti, cioè non puoi uscire da un certo, che so, dal comune o dalla provincia, devi rientrare a una certa ora a casa, però sei libero. Invece la detenzione domiciliare è molto più restrittiva. Quindi c'è una legge ancora più larga di questa, sia di quella del ministro Alfano 3 anni fa che di questa. Però perché non viene applicata? Uno, perché sono state fatte delle leggi cosiddette forcaiole, proprio letteralmente forcaiole, non è un termine che si usa, forcaiole vuol dire che danno, che stringono, no? Come le forche gaudine, ricordate che erano al tempo dei romani, erano dei passaggi obbligati che costringevano il nemico, per umiliarlo, a strisciare per terra, perché erano bassi, e a transitare strisciando per terra, appunto, per umiliarlo. Sono proprio vere e proprie forche, queste leggi, come la Cirielli, che impediscono l'accesso a queste misure alternative a chi ha commesso una serie di reati oppure a chi è recidivo. Ora, per i piccoli reati è normale la recidiva, non è normale invece, non è consueta tra i grandi reati, per cui sembra strano, ma in realtà le leggi fatte soprattutto dal governo Berlusconi, ma anche da quello Prodi precedentemente, sono andate a punire prevalentemente i piccoli reati, e mentre andavano a, soprattutto le leggi fatte dal governo Berlusconi, andavano a rendere più semplici o meno punibili i grandi reati, perché per esempio accorciavano il periodo in cui il processo dovesse essere realizzato, altrimenti si annullava il procedimento. E perché infatti la legge Gozzini è caduta sostanzialmente nell'abolizione? Considerate che la stessa legge, in Italia si chiama legge Gozzini del 1986, che è un po' in tutta Europa ci stanno leggi analoghe, per esempio in Germania una legge analoga permette che circa 140-150 mila detenuti non sono in carcere, sono appunto in misure alternative, perché questa legge è più o meno simile alla nostra, c'è le persone vengono avviate direttamente dalla condanna, quando il magistrato li condanna, se la misura è appunto inferiore a 3 anni o 4 anni a seconda, non li avvia al carcere, li avvia appunto direttamente alla misura alternativa, per cui quando vengono condannate queste persone non passano nemmeno attraverso il carcere, ma vanno direttamente a queste misure alternative. Quindi sono tantissime le misure, 130-140 mila in misura alternativa per esempio in Germania, e pochissime in carcere. Questo sarebbe un meccanismo pur negativo, perché insomma si tratta sempre di limitazione di libertà, però è questa la strada da seguire se si vuole alleggerire l'attenzione, la presenza in carcere. Questo provvedimento pare abbastanza demente, per non dire cretino, e evidentemente è stato preparato da quei funzionari del ministero che hanno veramente pochissimo interesse a svuotare il carcere, evidentemente, perché questo permette a loro di fare poi i loro traffici o comunque di avere di mantenere appunto i loro posti, che altrimenti sarebbero del tutto inutili. Insomma, comunque questo è il primo punto. Il punto è il prolungamento da 12 a 16 mesi della applicabilità del cosiddetto, la legge cosiddetta svuota carceri del ministro Alfano di 3 anni fa. Uscirebbero se no 3.000 persone gradualmente, perché dovranno tutti passare attraverso il vaglio della sorveglianza, quindi diciamo 100 al 100, 200 al mese ne usciranno, e quindi è nulla, è veramente svuotare il mare con un cucchiaino. Il secondo pilastro di questa legge è quello della, le persone che devono essere ancora giudicate possono aspettare la detenzione, non tanto, non a caso, cioè le persone vengono arrestate in attesa del processo, per esempio chi deve essere processato per direttissima, quindi quella settimana invece di andare in carcere e poi affrontare il processo e casomai uscirne subito dopo, infatti c'è una grande presenza in carcere di persone che entrano, stanno in media 3 giorni e poi escono, sono quelle persone arrestate per piccoli reati, i famosi piccoli reati che sono la gran parte, il 99,9% di ciò che accade in questo paese. Non ci sono più i grandi reati, queste qui di cui parlavano le cronache nere, queste sono baggianate che non sono false quasi tutte, come vedete spesso la cronaca nera si attacca a parlare di cose inesistenti, le cose gravi sono appunto i fenomeni di razzismo, di violenza interna, non cioè, le grandi rapine, queste non, purtroppo non avvengono più dico purtroppo perché appunto la società si degrada, perché c'è solo una violenza tra persone dovuta al degrado proprio delle relazioni umane e sociali esistenti. C'è soltanto, viene perseguita la piccola, cosiddetta la piccola criminalità, quella, le bagattelle, e queste persone che vivono di queste attività extralegali piccole, è chiaro che sono costrette a farne a reiterare il loro, no? Se uno diciamo, se uno ruba, è raro che ruba una volta nella vita, cioè questo lo, che chiaramente insomma vuol dire che la sua attività per reperire un reddito in qualche modo si basa sull'attività di esproprio, così di furto, chiamatelo come volete, insomma. E quindi è il modello che ha seguito quello americano, è proprio questo, di punire la piccola criminalità, perché c'è tutto un ragionamento, non è casuale queste cose, non le fanno per sbagliare. Loro intendo quelli che hanno in mano il potere, che garantiscono l'ordine di questa società, ossia l'ordine capitalistico, cioè l'ordine per cui tanti lavorano e pochi guadagnano e si arricchiscono, quando c'è situazioni di difficoltà pagano i poveri, i ricchi si arricchiscono anche le situazioni di difficoltà e così via, no? Ecco, loro, quelli che hanno, che mantengono in piedi quest'ordine, un ordine di grossa disuguaglianza, un ordine deleterio, un ordine infame, un ordine schifoso, abietto, l'ordine capitalistico, che appunto è la cosa più brutta vista dall'umanità in questi millenni, ebbene, chi mantiene quest'ordine sa, in piedi quest'ordine, sa che sono, diciamo, coloro che minano quest'ordine sono più quelli che per esempio fanno i piccoli furti, perché sono tanti, e quindi rischia di essere un po' un'influenza che si attacca a tutta la società, in non rispetto della sacralità della proprietà privata, no? Capito? Il furto, per carità, mette in discussione le basi centrali. Se tu ammazzi una persona o fai una violenza così, sì, è un fatto che sì, non serve a far parlare la cronaca nera, ma pare che non gli interessi granché, infatti non gli interessa granché, non è che ci sono leggi che puniscono i grandi reati, le violenze, queste cose in genere fanno parlare appunto i giornalisti che scrivono sulla cronaca nera, che spesso non ne sanno nulla di carcere, e però poi non producono niente, ma non perché uno vorrebbe che si aggravassero le punizioni per questi grandi reati, ma il problema è che le scelte fatte dai governi di questo mondo è quello di punire la microcriminalità, perché la ritengono pericolosa, perché intanto è un non rispetto dell'ordine, è un uscir fuori dalla disciplina. In America hanno coniato il famoso, lo ricordate perché ormai è vecchio di 20 anni, il famoso terzo strike. Il terzo strike vuol dire che tu, anche se rubi la famosa mela, no? Dici, tu rubi una mela la prima volta e vabbè, ti danno una punizione col condono, la seconda volta ti danno 2 anni, la terza volta ti danno da 3 anni all'infinito. È così, non è uno scherzo. Col terzo strike, cioè la terza volta che tu commetti il reato, ti danno una pena che va da un minimo all'infinito. All'infinito può darsi che tu, se hai rubato per 3 volte la fatidica mela, che si usa sempre la mela, e può essere un qualunque altro piccolo reato, puoi stare in galera in eterno. Chi deciderà la lunghezza della tua pena? Deciderà il fatto che tu non uscirai, non ci sarà un termine della pena, c'è un minimo. che dovrai scontare necessariamente. Dopodiché vieni vagliato, la tua condotta viene vagliata da un'equipe di persone, quegli stregoni che tentano di leggere il cervello, psicologi, sociologi, gente strana che non capisce niente, che stanno e che se dicono che tu sei una persona pericolosa, tu non esci più. Caso famoso, ormai sta sui libri di storia, per noi è quasi, è stato un eroe per i rivoltosi, i ribelli, i rivoluzionari americani, no? George Jackson entrò in carcere, era un nero americano, ovviamente simpatizzante delle Pantere Nere, cioè il fratello maggiore che era un militante delle Pantere Nere, lui pure militava, questo era, però non è che il reato per cui fu arrestato non c'entrava niente, lui fu arrestato perché praticamente faceva da palo, noi capiamo che vuol dire, no? A un suo amico che aveva rubato una macchina, cioè un suo amico stava rubando una macchina e lui gli faceva e guardava all'angolo della strada se avvenisse qualcuno, quindi lui non ha fatto niente e stava a dare una mano a st'amico suo che rubava una macchina, tutto qua. Arriva una pattuglia, li becca tutte e due e va bene e viene condannato l'amico suo al carcere e lui allo stesso. Lui però, siccome era un ragazzo che appunto frequentava ambienti pericolosi, aveva un fratello militante già schedato nelle Pantere Nere, era ritenuto anche lui simpatizzante delle Pantere Nere, il giudice gli diede una pena da 6 mesi, che per essere complice di uno che ruba una macchina più di 6 mesi, no, però da 6 mesi all'infinito, perché era soggetto pericoloso, addirittura non uso il termine pericoloso, soggetto antagonista, cioè è un soggetto che è contro di noi. Noi chi? Il giudice disse: noi il sistema, noi l'ordine capitalistico, noi l'ordine della proprietà privata, noi l'ordine divino. Addirittura in America sono talmente cialtroni, più cialtroni i giudici, no? Le establishment, i potenti, più cialtroni è difficile fare paragone, cioè, la cialtroneria, perché poi tutti quelli che giudicano gli umani invocano la divinità, un dio, una legge generale, no? Cioè noi in nome del popolo, questi lo dicono tutti, qualcuno dice pure in nome del dio, ti condanniamo a una pena eterna perché tu sei un elemento ostile, sei il nemico della società. Questo ragazzo che aveva addirittura pure 18 anni, 19 anni, entrò in carcere, poi infatti è morto in carcere, non è più uscito finché un giorno durante una rivolta un secondino gli ha sparato ed è morto George Jackson, tra l'altro un grande dagli scritti che ha lasciato e che io vorrei che si dovrebbero leggere nelle scuole di un paese civile, dignitoso, se ci fosse, questo non è un paese, che meno una scuola, se ci fossero degli insegnanti di un certo spessore, non so se ci sono, secondo me dovrebbero leggere le lettere di George Jackson ai ragazzi da 13-14 anni in su, possono capirle benissimo, e rappresenta bene che cos'è la condizione di ghettizzazione, di emarginazione, che cos'è il carcere. E insomma, questo per dire che insomma, c'è un meccanismo, quindi purtroppo torniamo al nostro ministro, al nostro decreto cosiddetto svuota carceri. Purtroppo non è che avevamo nessuna speranza, però cioè un ministro, questa signora Paola Severino, che dice di essere un tecnico, non è un tecnico, come non lo è Monti, perché qui di tecnici non c'entra niente. Perché un tecnico avrebbe affrontato il problema del carcere dal punto di vista della un tecnico che cosa valuta, se lo si chiama tecnico, la soluzione deve essere la migliore possibile con il miglior dispendio di energie. Questo il tecnico non può che ragionare così ci hanno insegnato negli ultimi 4 secoli. La modernità è questa: un tecnico è colui che, dato un obiettivo, cerca di raggiungere il miglior obiettivo in quel senso con il miglior dispendio di energie. In realtà no, lei non ha fatto assolutamente questo, quindi non è un tecnico, così come non è un tecnico Monti che sta castigando, non è che leva i soldi dove stanno, leva i soldi dove non stanno, va a colpire le pensioni, va a colpire, adesso vuol colpire il cosiddetto mercato di lavoro, cioè le condizioni dei più disgraziati, dei poveracci, di quelli dei proletari, di quelli che lavorano e che hanno solo un salario, non è che va a colpire, non ha messo la patrimoniale, quindi ha fatto un discorso completamente contrario a quello di un tecnico. Non sono tecnici, sono il contrario del tecnico, sono degli antitecnici, ma d'altronde in una società come questa il tecnico non esiste, è un'invenzione, sono tutte dinamiche politiche, perché prima della scelta il ragionamento che si fa non è tecnico, è politico. Allora, il suo decreto sta tutto dentro una logica che è quella appunto che chiamiamo forcaiola, ossia che tenta di dare la risposta carcere all'assenza di risposte sociali. Laddove viene a mancare una risposta sociale alla povertà, alla disoccupazione, al disagio, e un tecnico dice: allora qual è il problema? La disoccupazione, trova la soluzione della disoccupazione, cioè trovi un provvedimento che fa aumentare, che fa diminuire la disoccupazione, quindi che fa aumentare l'occupazione. Questo sarebbe il discorso di un tecnico. E invece no, va a togliere i soldi laddove sono già pochi, cioè il governo in generale ha tolto i soldi ai pensionati e ai salariati, fa aumentare la disoccupazione perché porta alla recessione. E sul piano carcerario che cosa fa? Colpisce i più deboli, i poveri, incarcera la povertà. Invece avrebbe dovuto abrogare la legge Cirielli, che è la più infame e la più nazista, una legge veramente nazista la Cirielli, non a caso l'ha fatta il governo nazista Berlusconi, perché è una legge che appunto, la Cirielli ve la ricordate, è la legge che era a favore dei grandi criminali e a sfavore dei piccoli ladruncoli, la cosiddetta criminalità di strada, ed è proprio lo spirito che impersonifica quell'arroganza squallida, brutta, che in Italia si respira da troppo tempo. Per cui questo governo qui, tra l'altro questo ministro Paolo Severino, non si discosta di una virgola dal precedente attività sul terreno della giustizia del ministro Alfano, di Berlusconi e così via, è la fotocopia di Berlusconi. Ci dispiace, però è chiaro che queste miserie, cioè un pacchetto così è veramente penoso. L'altro elemento che preoccupa, e poi la finiamo, poi entriamo in particolare, però questi sono due, perché poi vediamo che sono anche inapplicabili, è che appunto pensate l'assurdità, la dabbenaggine proprio, no? Il problema di poter dire, il problema che si pone questa gente è di poter dire, appunto ministri, governanti, eccetera, di poter dire fra 6 mesi, sì è vero, noi 68, erano 68.000 i carcerati quando siamo entrati al governo, adesso sono 65.000, quindi abbiamo, non considerando dove sono stati messi gli altri 3.000 che mancano, no? Veramente considerano degli esseri umani come dei pacchi, ma forse peggio, li tratterebbero meglio dei pacchi postali, perché a parte il prolungamento del decreto Alfano che ne fa uscire 3.000 così, no? Detenzione domiciliare, mentre sarebbe stato meglio accelerare il blocco della legge Gozzini, che permetteva di andare molta più gente, sarebbe andati 20.000 se sbloccava la legge Gozzini bloccata dalla Cirielli e da bastava fare appunto l'automaticità della uscita dalla Gozzini direttamente. Ne abbiamo parlato tante volte che è un provvedimento che esiste tra l'altro in tutta Europa e non si capisce perché qui non si può applicare. Comunque invece di fare quello, quindi 3.000 li risparmia probabilmente così tra 6 mesi, ma nemmeno, perché ne usciranno 100-200 al mese, quindi comunque tra un anno 3.000 di meno ce ne saranno. L'altro provvedimento è che quelle persone in attesa di giudizio, che dovrebbero stare a casa perché non si capisce perché li portano in carcere, appunto quelli che poi vanno in carcere 3 giorni e poi escono, la soluzione qual è? Che è aberrante questa, non in carcere, li teniamo nelle celle di sicurezza. L'unica cosa, celle di sicurezza dove negli ultimi tempi, negli ultimi anni, è morta più gente di quella che è morta in carcere. Perché le celle di sicurezza sono qualcosa di spaventoso, sia quelle delle caserme dei carabinieri, sia quelle dei commissariati. Perché lì dentro, quando viene arrestato, entri in un posto che è molto peggio del carcere, di gran lunga peggio. No? E di questo non ne può parlare né un ministro né un funzionario. Fatevi la galera se volete capire quel caso. È vergognoso che una persona senza aversi fatto un giorno di galera sa distinguere la differenza tra celle di sicurezza e carcere. Il carcere è molto meglio, se meglio, o comunque è molto meno peggio la cella di sicurezza, perché pensate un attimo, da esseri umani, tornate un po' alla dimensione umana se ci riuscite, cosa molto difficile per questi vigliacchi che da 30 anni, da 40 anni distruggono il paese, dopo aver distrutto con tutti i mezzi, compresa la tortura, un movimento che voleva trasformare questo paese. Sono gli stessi, la stessa gentaccia, veramente. Vabbè, comunque, quando viene arrestato, una persona che viene arrestata già subisce un trauma, perché improvvisamente è presa da alcune persone che ovviamente lo prendono, nessuno ti prende con i guanti offrendoti un caffè, ti prendono un po' brutalmente e fino a qui è tutto. Poi ti portano nelle celle di sicurezza del commissariato o della caserma dei carabinieri. Tu lì entri in un posto dove sei solo, non ci sono altri detenuti, sei tu solo o sola con carabinieri o poliziotti intorno. Stai in un ambiente che non è attrezzato per tenere delle persone, non sai quali sono i tuoi diritti né quali sono i tuoi doveri, stai completamente in balia di chi ti ha arrestato. La tensione del primo arresto, che appunto non avviene così con un sorriso sulle labbra e con offriamoci una sigaretta, perché non è, avviene sempre con in maniera un po' rude, crea tensione tra chi ti ha arrestato e chi è stato arrestato, tra questi due soggetti, tra un gruppo, coloro che ti hanno arrestato e quelli che sono stati arrestati. Questa tensione continua a rimanere lì nelle celle di sicurezza e può provocare, come spesso provoca, pestaggi, scontri, fino a Cucchi è morto lì, non è morto in carcere, è stato massacrato lì, non in carcere. In carcere, pur essendo il posto più brutto del mondo, quando tu arrivi trovi intanto un ambiente dove ci sono tuoi persone che condividono con te, perché trovi intanto i carcerati e carcerati o carcerate che tanto ti accolgono. L'accoglienza è sempre rimane, i detenuti accolgono chi viene messo in carcere, l'accolgono anche offrendo una sigaretta, facendo arrivare il caffè e altre cose, e poi ti danno anche un'ala protettiva. Riesci subito dopo mezz'ora appena entrati in carcere, sai più o meno quali sono i tuoi diritti e i tuoi doveri per grosse linee, sai come comportarti, cioè, ecco, questa cosa nella cella di sicurezza viene a mancare. Quindi far rimanere fino a 7 giorni le persone, addirittura prorogabili a 2 settimane, nelle celle di sicurezza è una cosa veramente vigliacca, spaventosa, pericolosissima, perché ci si muore nelle celle di sicurezza in percentuale alle persone che vi stanno molto di più che non in carcere, soprattutto si viene pestati, però siccome siamo in un paese di persone che tengono più alla forma che alla sostanza, gli ha cambiato nome, non si chiameranno più celle di sicurezza ma a camere di custodia. E allora così sembra aver, siccome le persone, cioè Stefano Cucchi è morto in una cella, picchiato in una cella di sicurezza, non risulta che sia morto nessuno alle camere di custodia, perché non esistevano, cominceranno a essere nominate tali, capite a che punto c'è. Va bene, questo è diciamo il quadro che abbiamo dato. Pensiamo che insomma, la cosa è abbastanza grave. Purtroppo non ci saranno amnistie o indulti come sono stati promessi da più parti, la situazione è molto nera, però io credo che se, intanto stavo preparando una, ecco qui, un'altra canzone da farvi ascoltare di questo CD sempre, io penso che insomma se, siccome la situazione è veramente tesa e grave, e nelle carceri già cominciano a svilupparsi delle rivolte, se ci da parte della società esterna, tutti noi, tutte noi, ci si dia un po' da fare, ci si dà un po' da fare per rapportarsi a chi sta in galera, penso che qualche cosa di meglio di questa porcheria di provvedimento si riuscirà a ottenere. Adesso vi facciamo sentire un'altra canzone, ci prendiamo questo stacco, si chiama, è la traccia numero 2, Sana Follia, sempre di quel CD di Jail. procedere, perché altrimenti ogni speranza muore. Non c'è più posto per l'amore nel mio cuore, ma odio e rabbia rischiano di esplodere. Devo resistere, non posso cedere, perché altrimenti ogni speranza muore. Verità, bellezza, libertà, amore, tutto passa attraverso il cuore, ed è questa la tua canzone. E allora, questa è la traccia numero 2, Sana Follia. Allora, vediamo intanto, queste stesse cose, pensate, le dice il giudice Cassone. Ricordate il giudice Cassone, che adesso è diventato un deputato del PD, insomma, che si occupò al tempo, ne conosce un po', perlomeno sa. E dice le sale di custodia, perché non si chiamano camere di custodia o sale di custodia, è pericolosa, lo dice perfino lui, perché insomma un po' ci ragiona. Pur se è positiva, questa ha detto la DN Kronos ieri, pur se è positiva negli intenti la proposta della ministra Severino di creare delle sale di custodia, oltre che controproducente, rischia di essere pericolosa. Quindi per dirlo un giudice, insomma, che è pericolosa, perché sono una persona che ragiona, perlomeno Casson. Lo afferma Felice Casson, vicepresidente del gruppo PD al Senato, dice che continua dicendo così: poliziotti, carabinieri, guardia di finanza non possono essere delegati a svolgere attività diverse da quelle per loro istituzionali. La gestione delle sale di custodia richiederebbe personale autonomo che verrebbe sottratta ai compiti di polizia. Inoltre, sempre Casson, mantenere per alcuni giorni a stretto contatto, in attesa dell'udienza, gli arrestati e coloro che hanno proceduto all'arresto potrebbe generare forti tensioni. E la Madonna, e non ci voleva Gesù Bambino per capire questa cosa, insomma, no? Ecco, un ministro, vabbè. Ma il problema non l'ha scritto il ministro, se l'hanno scritto i funzionari del ministero, forti tensioni, come in passato è già successo, con il rischio di generare altri processi per lesioni, percosse, calunnie e controcalunnie, e questo è... Come vedete, insomma, è proprio una cosa orribile, orribile. A Roma si dice con R sola, o se ci volete mettere due R, orribile, insomma. Perfino i funzionari di PS dicono che sono contrari alle sale di custodia, loro lo dicono da un altro punto di vista perché gli aumenta il lavoro, ovviamente loro volendo lavorare poco. Dicono sempre ieri un'agenzia dell'ANSA, non siamo affatto convinti che tenere un soggetto due giorni, anche di più, in uno spazio strettissimo, perché poi come sono sociali di sicurezza, perché non li andava a visitare prima la ministra e i suoi funzionari prima di dire queste baggianate, con un giaciglio in muratura e una coperta, queste sono le un giaciglio in muratura e una coperta, quindi un rialzo in muratura con sopra una cosa che si chiama materasso, ma che non lo è una coperta senza una finestra e un bagno, sia meno traumatico che andare in carcere. Non sono d'accordo con quello che è meno traumatico, sanno che le loro celle di sicurezza sono più schifose del carcere, dove nella cella almeno troverebbe un letto, un pasto e un servizio igienico, vabbè. Lo afferma Enzo Marco Letizia, segretario nazionale dell'Associazione Funzionari di Polizia, commentando le norme del pacchetto Severino. I 21.000 detenuti coinvolti nel cosiddetto fenomeno delle porte girevoli, cioè quelli che entrano e escono perché appunto vengono arrestati in flagranza oppure per piccoli reati, quelli bagatellari come si dicono, e questi non dovrebbero mettere i piedi in carcere, ma basterebbe applicare rigidamente il codice di procedura penale. Ora è gravissimo che un ministro della giustizia non dice: ci abbiamo un codice di procedura penale recente fatto nel 2000 che dice che queste persone non devono entrare in carcere, aspettano il processo a casa perché rischiano pochissimo, rischiano da 6 mesi, 1 anno, 2 anni, per cui non è che uno scappa se c'ha da fare 6 mesi di carcere, farla di tanta vita per non fare 6 mesi di carcere non ha senso, e quindi si doveva dire una norma che vengono tenuti ai domiciliari in attesa del processo, non nelle celle di sicurezza. E vabbè, comunque queste sono le miserie di questo veramente uno dei peggiori governi della Repubblica. I 21.000 detenuti coinvolti nel cosiddetto fenomeno delle porte girevoli, dice questo responsabile segretario dell'Associazione Funzionari di Polizia, incidono mediamente per soli 115 posti giornalieri, e perciò è evidente quanto sia risibile il recupero dei posti letto nelle carceri, mentre si metterebbero in crisi il sistema di sicurezza dei cittadini. Infatti, e qui se la mette sul problema della sicurezza, dice: fare questo applicato questo decreto significherebbe togliere il servizio volanti, diminuire il servizio volanti, perché quelli che fanno la perlustrazione del territorio, cioè le volanti, dovrebbero, gran parte di quel personale dovrebbe essere tenuto a controllare queste camere di custodia, cioè le celle di sicurezza, e quindi giudizio negativo perlomeno da chi si occupa, su modi diversi, non condivisibili chiaramente, però per dire che è proprio una baggianata, una cosa che non sta né in cielo né in terra, è una stupidaggine, soltanto per dire noi abbiamo affrontato il problema carcere. E vabbè, insomma, i temi sono tanti, però è da cassare completamente, è da purtroppo, come dire, da buttare appunto secchiate d'acqua fredde nella speranza dei detenuti e delle detenute, perché qui non c'è niente da sperare. Il problema sta nelle nostre mani ancora una volta, e o ci diamo da fare oppure insomma la situazione da parte loro, da parte di chi ha in mano le sorti, le chiavi delle celle di sicurezza e delle carceri, non arriverà nulla di buono. Bene, noi terminiamo qui perché sono le 16, mancano una manciata di secondi. Prima però vogliamo ricordare già da adesso che il 31 mattina ci vedremo sotto il carcere di Re Bibbia, quindi appuntamento per tutti e tutte, coloro che stanno fuori, parenti, amici, ma persone che comunque si sentono in qualche modo in sintonia con chi è recluso, con chi è privato o privata della propria libertà. Il 31 mattina alle ore 11, dalle 11 fino alle 3 del 4 del pomeriggio, sotto il carcere di Re Bibbia, all'angolo tra via Bartolo Longo e via Maglietti. E ci troveremo lì, musica, ci sarà anche da mangiare, lenticchie, cose, però per mandare un po' di musica oltre le mura a chi appunto è privato della libertà e per augurare un anno senza sbarre. Poi appunto qui c'è Scarceranda, anche quella mattina chi non l'ha comprata la potrà trovare lì sui banchetti fuori di Re Bibbia, e anche altro materiale diciamo informativo sul carcere. Quel giorno ci sarà in parecchie città d'Italia e anche del mondo. È una giornata ritenuta un po' da tutti, perché è ritenuta giorno contro il carcere. L'ultimo dell'anno è stato dichiarato non da nessuna istituzione ma dagli stessi detenuti giornata contro il carcere, quindi facciamo anche noi la nostra parte, 31 di ogni anno giornata contro il carcere, perché prima o poi arriverà quel 31 di un anno X, non sappiamo quale, che diremo da domani, 1 gennaio, il mondo è senza galere, e a quel punto avremo raggiunto la soglia minima di civiltà accettabile, perché una civiltà comincia quando inizia, appunto, quando si elimina il carcere. Bene, noi volevamo farvi sentire altre canzoni, le andremo ad ascoltare. La prossima, mo intanto cerchiamo di mettere la sigla, se ci riusciamo. Allora, non ci riusciamo, e quindi ho una scheggia dentro il cuore che non riesco a levare. Ho una scheggia dentro il cuore che non riesco a levare. Tu mi giudichi e condanni, ma tu vuoi l'attenuante. Apri bocca e non ci pensi, cerchi solo gli scontri. Ho una scheggia dentro il cuore che non riesco a levare. Ho una scheggia dentro il cuore che non riesco a levare. Tu mi giudichi e condanni, ma tu vuoi l'attenuante. Apri bocca e non ci pensi, cerchi solo gli scontri. Tu hai svegliato, ma hai svegliato, ma hai commesso un peccato. Non ci credo, non barare, non sentirti superiore. Prima o poi sono sicuro, come me ci caschi pure. Poi non dire mi dispiace, cerchi di recuperare. Tu hai sbagliato, ma hai sbagliato, ma hai commesso un peccato. Ma hai commesso un peccato. Tu hai sbagliato, ma hai sbagliato, ma hai commesso un peccato. Dimmi cosa pensi di quei momenti spenti, degli occhi a te nervose, mille pose e dei silenzi. Vorrei proprio saperlo, ma ti senti importante. Pensi solo ai tuoi conti e fai male alla gente. Tu hai sbagliato, ma hai sbagliato, ma hai commesso un peccato. Ma hai commesso un peccato. Tu hai sbagliato, ma hai sbagliato, ma hai commesso un peccato. Ma hai commesso un peccato. Ho una scheggia dentro il cuore che non riesco a levare. Ho una scheggia dentro il cuore che non riesco a levare. Tu mi giudichi e condanni, ma tu vuoi che io andi a prigionare. Sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui. Sarò più saggio quando uscirò, non mi farò peccare. Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare, e ai sogni c'è un limite, te lo dai giudice. Il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui, il tempo che pare, dimmi dove vai, non Dunque, quest'oggi la trasmissione Contaminazioni Afro non andrà in diretta perché appunto il conduttore ha avuto dei problemi di lavoro e non è riuscito a districarsi in tempo. Infatti stiamo mandando una replica sempre di Contaminazioni Afro. Ci ha assicurato però che sarà qui mercoledì prossimo, così per augurare a tutti e tutte buon anno. Questa è una replica di Contaminazioni Afro. I will, yes I will, if you give me a reason. And then I won't, no I won't, no I won't, if you get to please it. Sette.9 FM Radio Onda Rossa, la musica del sottosuolo si espande con tutti i suoi suoni, con tutte le sue dimensioni. Andiamo a catapultarci in luoghi inesplorati. Lo facciamo anche quest'oggi, in questo mercoledì 4 maggio 2011, l'appuntamento fisso del mercoledì in compagnia dell'Arcano. Selezione a tutto tondo, a 360 gradi. Questa è la musica underground. E oggi veramente ne ho tantissime in serbo, eh. È vero che la settimana scorsa non ci siamo stati, o meglio, ci siamo stati con una replica, per cui in due settimane veramente è successo il pandemonio in campo musicale. E quindi per l'appunto oggi voglio offrirvi veramente tantissima bella musica. Andiamo un po' a fare dei salti assolutamente temporali. Naturalmente lo facciamo subito, cominciando con questa prima sessione e tornando indietro di una cinquantina d'anni circa. Horace Parlan. È così che dobbiamo iniziare oggi alle contaminazioni afro, free jazz.